Europa 24. Buongiorno da Sergio Nava, bentrovati a questa nuova edizione di Europa 24. In apertura, la notizia anticipata oggi dal Financial Times che rischia di provocare nuovi problemi alla stabilità dell'Eurozona. Cipro avrebbe chiesto ai partner europei una revisione completa del piano di salvataggio da 10 miliardi di euro, avvertendo che Nicosia potrebbe non rispettare le attuali condizioni. Secondo il presidente cipriota Nikos Anastasiades, la ristrutturazione delle due principali banche dell'isola è stata fatta senza i necessari preparativi, spazzando via i capitali di molte aziende locali. L'economia cipriota sta soffocando, avverte Anastasiades. E la Commissione europea presenta oggi una comunicazione sulla disoccupazione giovanile. Il tema sarà, su iniziativa italiana, al centro del vertice comunitario che si apre tra 8 giorni a Bruxelles. Nelle ultime ore sono già circolate le prime bozze di conclusione del summit. Sentiamo. Mobilitare tutti gli strumenti a sostegno dell'occupazione giovanile, questo è il principio guida dell'Europa e queste le concretizzazioni. Il focus dei fondi strutturali sarà all'occupazione dei giovani e si sfrutteranno tutte le possibilità del Fondo Sociale Europeo. I 6 miliardi della garanzia dei giovani saranno anticipati infatti al 2014 e concentrati su 2 anni, invece che spalmati su 7 come previsto inizialmente. Gli Stati però devono approntare entro dicembre tutti i progetti per far funzionare la garanzia dei giovani, che assicurerà un lavoro ai ragazzi a non più di 4 mesi dalla fine degli studi. Il finanziamento per i 6 paesi più bisognosi, Italia compresa, con 400 milioni di quota, sarà così disponibile a partire dal 1 gennaio 2014. Nel 2016 la Commissione farà una valutazione dell'applicazione della garanzia dei giovani. Per un possibile rifinanziamento, le istituzioni dovranno snellire le iniziative legislative a favore dell'impiego dei giovani. Gli Stati invece dovranno utilizzare una parte del Fondo Sociale per finanziare programmi di mobilità in Europa. Senza dimenticare le riforme, mercato del lavoro, sistemi scolastici e creare un ambiente favorevole alle start-up. I giovani attendono. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La pagina economica, c'è un'ultima ora da Berlino con le dichiarazioni di Barack Obama. L'accordo sul libero scambio tra Stati Uniti ed Europa è molto importante, a dirlo appunto Barack Obama, in visita da Angela Merkel. Buone notizie sul fronte economico, torna a crescere la produzione edilizia nell'Eurozona che a maggio ha registrato un più 2% rispetto ad aprile quando era calata dell'1,8%. Cattive notizie invece sul fronte italiano, il PIL pro capite della penisola è inferiore del 10% alla media dell'Eurozona, leggermente inferiore anche alla media europea, quanto emerge dalla prima stima Eurostat per il 2012. Ok, dei ministri europei dell'ambiente ha una strategia comune di adattamento al clima, i 27 premono l'acceleratore sulla necessità di una maggiore azione a tutti i livelli per l'adattamento all'emergenza climatica. Via libera della Commissione economica del Parlamento europeo all'impianto della Tobin Tax proposto dalla Commissione europea, che prevede un'imposta dello 0,1% su azioni e bond e dello 0,01% sui derivati. I parlamentari propongono che fino al 1 gennaio 2017 i tassi siano dimezzati per operazioni sui titoli sovrani e per le compravendite dei fondi pensione. Il parere del Parlamento è solo consultivo. Anni Podimata, eurodeputata del gruppo socialdemocratico, si è detta molto soddisfatta del voto. Credo che il Parlamento abbia dimostrato la sua coerenza con la sua posizione favorevole all'introduzione di una tassa delle transazioni finanziarie. E l'Europa guarda infine anche ad un altro obiettivo, quello dei 3 milioni di studenti Erasmus. Sono Federico Taddia e oggi vi presento un'iniziativa lanciata dalla Commissione europea per festeggiare il traguardo dei 3 milioni di studenti Erasmus che verrà raggiunto nel 2013. La Commissione selezionerà quindi per ogni paese membro il 3 milionesimo studente che avrà così la possibilità di andare a Bruxelles per rappresentare la propria nazione durante le celebrazioni ufficiali. La selezione sarà assistita dal Consiglio internazionale dell'Erasmus Student Network affinché rappresenti siano scelti anche dai loro coetanei. Gli studenti interessati possono candidarsi entro il 23 giugno attraverso il sito www.esn.org. Era questa l'ultima notizia di Europa 24, noi ci risentiamo poco dopo le 15 con GR Europa. Un saluto da Sergio Nava. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.